giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera della regione all'accordo con A2A per riconvertire la centrale di Monfalcone. Non funzionerà più a carbone ma a gas e in futuro a idrogeno e solo a fronte di picchi di richieste di energia. In zona previsti investimenti milionari per un porto turistico e un polo tecnologico. Ammesse alle prossime elezioni regionali tutte le liste presentate con una parziale eccezione. Oggi il sorteggio per stabilire l'ordine dei candidati presidente e delle liste a supporto sulla scheda elettorale. Ieri chiusa la presentazione delle candidature per le comunali. Finisce al pronto soccorso con una ferita d'arma da taglio al torace. Incalzato dalle domande dei sanitari minimizza l'accaduto, ma gli agenti chiamati dai sanitari scoprono che a colpirlo è stata la compagna durante una lite sequestrata in casa al coltello dell'aggressione. Maratona di interventi eccezionale al centro trapianti dell'ospedale di Udine. 8 in 30 ore in poco tempo, un trapianto di cuore, uno di fegato e 3 di rene, cui si sommano quelli effettuati fuori regione. La nostra intervista al direttore della struttura. Cimolai, azienda pordenonese specializzata in grandi opere in acciaio, avvia un'avvertenza giudiziaria nei confronti del broker che avrebbe effettuato in modo errato la vendita di alcuni derivati sulle valute, operazione che ha messo a rischio la società. Entra in vigore oggi la nuova normativa sui divorzi che semplifica le pratiche e abbrevia le procedure, una svolta molto attesa ma che potrebbe trovare difficoltà nella sua applicazione a causa della carenza di personale negli uffici giudiziari. E parte oggi il nuovo bando per il bonus psicologo, copre il 90% del costo di 5 sedute ed è riservato agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e a quelli dei corsi di formazione professionale. E sempre da oggi in provincia di Trieste è possibile presentare la richiesta di contributi per le spese mediche, farmaceutiche e veterinarie che riguardano gli animali d'affezione. I richiedenti devono avere più di 65 anni e un ISE pari o inferiore a 15.000 euro. Non solo Maneskin allo Stadio Rocco, la prossima estate a Trieste si esibirà anche Zucchero Fornaciari con due serate in Piazza Unità il 4 e 5 luglio. Lo stesso mese, il 15, è previsto anche il concerto di Biagio Antonacci. Pallanuoto, Trieste rientrata dalla Final Eight di Coppa Italia con il rammarico per la sconfitta ai quarti con la N Brescia, sarà impegnata oggi nella semifinale di andata di Eurocup contro Savona. Si gioca questa sera alla Bruno Bianchi. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 5,5 gradi. Soffia bora a 66 km orari con raffiche che hanno raggiunto i 98 km orari. Pordenone 5, Udine e Gorizia 6,5, Sappada -4,5, Forni di Sopra -3,5, Tolmezzo -2,5, Viso -2, Piancavallo 5 decimi di grado sotto lo zero, Monte Lussari -8, Monte Zoncolan -5,5, grado 6,5, Lignano 7,5. E le previsioni per oggi: al mattino cielo nuvoloso coperto nel Tarvisiano, dal pomeriggio in serata probabili precipitazioni deboli a est, moderate a ovest, forse localmente più consistenti sul Piancavallo e verso il Cadore, con neve mediamente oltre gli 800 metri fino a fondovalle nel Tarvisiano e in alcune valli più interne. Inizialmente possibile qualche debole nevicata anche sulle zone più alte del Carso, soffierà bora forte sulla costa, moderata o sostenuta in pianura e in quota. A Trieste probabili raffiche sui 100 km orari. Importanti novità in vista per Monfalcone. Ieri la giunta regionale ha approvato un accordo con A2A per la dismissione della centrale a carbone. Al suo posto nei prossimi anni sorgerà una nuova centrale a idrogeno e nell'area, una volta bonificata, una stazione marittima e un polo tecnologico. Il futuro è adesso. Anche se l'accordo non avrà effetto immediato, si spegne per sempre dopo 60 anni la centrale a carbone A2A di Monfalcone. L'impianto, una volta avuto l'ok per lo stop da Terna e dal Ministero, sarà demolito. Un investimento da oltre 80 milioni complessivi in accordo con la Regione, che avrà effetti sul territorio visto che di questi 20 saranno utilizzati per la rigenerazione urbana. Al suo posto, una volta che l'area sarà bonificata, il costo complessivo degli oneri di quasi 60 milioni messi dall'azienda, sorgerà una nuova centrale che lavorerà in maniera diversa. Si tratterà infatti di un impianto a gas, non solo metano ma anche biogas, che avrà la possibilità di lavorare anche a idrogeno per circa il 30%. Rispetto a quanto accadeva con quella a carbone, la nuova è destinata alla sicurezza del sistema e non alla produzione di energia. In sostanza si attiverà soltanto quando le fonti rinnovabili di altri impianti avranno bisogno di supporto per generare potenza. La struttura occuperà molto meno spazio di quella esistente e per questo si libereranno aree preziose, soprattutto le banchine, dove sarà realizzato un porto turistico per nautica da diporto, fiora all'occhiello del progetto di riqualificazione da 20 milioni e una passeggiata ciclopedonale oltre un mini polo tecnologico. Il processo di demolizione e bonifica durerà 54 mesi dal via libera di Terna e Ministero. Il piano è stato condiviso da A2A Energie Future e Regione. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Le elezioni del 2 e 3 aprile sono state quasi tutte ammesse, con poche eccezioni, le candidature alle elezioni regionali. Intanto ieri si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste per le comunali. A Udine ce ne saranno 14 a sostegno di 4 candidati sindaco. L'ufficio elettorale ha ammesso alle regionali tutte le liste per cui sono state presentate le candidature. L'unica parziale eccezione è rappresentata da Insieme Liberi, esclusa dalla scheda elettorale nella circoscrizione di Tolmezzo, per non aver raggiunto le 750 firme autenticate necessarie. Stiamo valutando se presentare ricorso, ha commentato Antonio Racà, uno degli esponenti della lista. Ci sono state poi 3 esclusioni individuali, riguardano altrettanti candidati consiglieri dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Nulla cambia per la lista, che sarà regolarmente presente sulla scheda. Anche in questo caso è teoricamente possibile ricorrere prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Intanto la Regione procederà stamattina con il sorteggio per stabilire l'ordine delle liste dei 4 candidati presidenti sulle schede: Massimiliano Fedriga, Massimo Morituzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli, mentre si sono chiuse le candidature anche per i 24 comuni al voto. A Udine partita a 4 per il sindaco, l'uscente Pietro Fontanini, centrodestra, ha 6 liste a supporto: Identità Civica, la civica che porta il suo nome, Lega, Fratelli d'Italia, UDC e Forza Italia. 4 i simboli per Alberto Felice De Toni, la sua civica, Partito Democratico, Terzo Polo e Alleanza Verdi Sinistra. Ivano Marchiol può contare sul Movimento 5 Stelle su 2 civiche, Spazio Udine e Udine Città Futura. Stefano Salmè correrà con Io Amo Udine. A Sacile, l'altro comune in cui è possibile il ballottaggio, la competizione è ancora più affollata. In 5 lottano per diventare sindaco l'uscente Carlo Spagnol, centrodestra, Patrizia Del Col, Partito Democratico, Giampaolo Grolla, Terzo Polo, Mario Modolo, Libera Sacile e Anna Piemontese, Laboratorio 33077. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È finito in ospedale con una ferita di arma da taglio al torace. Ha cercato di minimizzare l'accaduto, ma gli agenti intervenuti sul posto hanno scoperto che a ferire l'uomo di 38 anni era stata la compagna e accaduto a Udine, il servizio. Rischia l'incriminazione per lesioni la giovane che a Udine ha colpito il compagno con un'arma da taglio. Gli investigatori della questura stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Nella tarda serata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine si è presentato un uomo di 38 anni con una ferita da taglio al torace. Incalzato dalle domande del personale sanitario su come si fosse procurato quel tipo di ferito, l'uomo aveva tentato di dare una versione non credibile, cercando di minimizzare e giustificare la caduta. Data la natura del taglio, sono stati fatti intervenire gli agenti della questura, che hanno scoperto che il 38enne era stato aggredito nella loro abitazione dalla compagna. La giovane, stando alla prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, in preda alla rabbia avrebbe impugnato un coltello ferendolo al torace, fortunatamente in modo lieve. Gli ha procurato un taglio di alcuni centimetri. Stando agli elementi raccolti finora dalla polizia, sarebbe accaduto nell'ambito di una lite domestica. Durante il controllo effettuato dal personale delle volanti inviati all'interno dell'abitazione è stato individuato il coltello, che è stato posto sotto sequestro. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 8 interventi in 30 ore è il tour de force del centro trapianti regionale dell'ospedale di Udine, che ha portato a termine un trapianto di cuore, uno di fegato e 3 trapianti di rene in sede, cui si sommano quelli effettuati fuori regione. Un risultato straordinario ottenuto grazie al coordinamento e la collaborazione di tutti gli attori, come ci ha spiegato il direttore del centro, il dottor Roberto Peressutti. La settimana scorsa i centri di trapianto di Udine, Centro Regionale Trapianti e l'azienda Friuli Centrale sono stati coinvolti in un vero tour de force di donazioni e trapianti. Questo in quanto c'erano in contemporanea una procedura di prelievo e trapianto di rene da vivente e ne sono già stati fatti 2 dall'inizio di quest'anno, quindi questo è un dato molto positivo in termini di attività di trapianto da vivente, ma poi c'era stata la disponibilità importante di 2 famiglie di persone con un danno cerebrale irreversibile in cui era stata certificata la morte, che avevano dato la disponibilità alla donazione. Per cui la responsabilità di tutto il sistema e tutta la rete regionale era quella di fare in maniera che questo gesto di solidarietà portasse il miglior risultato possibile ai tanti pazienti che sono in lista d'attesa. Quindi questo ha implicato un lavoro importante di coordinamento anche delle equipe esterne, i chirurghi che sono arrivati anche da altre regioni per effettuare i prelievi e poi i trapianti fuori regione, perché gli organi erano allocati, assegnati in base alle priorità di urgenza, e all'equipe della clinica chirurgica della cardiochirurgia di Udine per effettuare i prelievi e i trapianti in sede, oltre ai trapianti da vivente. Quindi questo ha implicato una collaborazione molto stretta di molteplici equipe, tanti attori, anche i sistemi di trasporto, la SORES, la Croce Rossa, certo, e la disponibilità dell'aeronautica militare ad aprire l'aeroporto di Rivolto per l'arrivo dell'equipe, diciamo, più distante, che ha portato alla possibilità di fare un numero elevato di trapianti. Quindi donatori e riceventi erano in larga parte della regione? Donatori e riceventi erano in larga parte della regione Friuli Venezia Giulia, alcuni riceventi si trovavano in urgenza in altre parti d'Italia. Anche per il 2023 le famiglie del Friuli Venezia Giulia potranno usufruire del bonus psicologo per gli studenti. Per l'anno in corso sono stati stanziati 500.000 euro, pari a 2.222 interventi di contributo. Il bonus ammonta a 225 euro e copre il 90% del costo complessivo di 5 sedute con uno dei 400 psicologi accreditati sull'intero territorio regionale. Resta a carico della famiglia la quota di 25 euro, pari a 5 euro per ciascun incontro, da versare allo psicologo accreditato con cui si sono tenute le sedute. Da oggi il via alle domande sul nuovo bando. Destinatari sono i nuclei familiari residenti in regione con studenti di età non superiore ai 24 anni, iscritti alle scuole secondarie di primo grado o di secondo grado, sia pubbliche che private. Possono accedere al bonus anche gli iscritti ai corsi di istruzione formazione professionale. La presentazione della domanda dovrà essere effettuata online collegandosi all'apposito link www.ardis.fvg.it, dove si potrà accedere anche alle informazioni necessarie. Sarà illustrato nell'incontro di oggi il servizio Contatto, offerto gratis da Televita e Asugi a tutti gli adolescenti e giovani che vivono un problema e cercano aiuto o informazioni nel completo anonimato. Prevede un centro di ascolto telefonico e un sito web. Ne parleranno Michela Flaborea, fondatrice di Televita Trieste, e Hanna Farà, psicologa e psicoterapeuta del centro di ascolto Televita. Appuntamento alle 18.30 alla sede di Trieste del Centro Veritas. Entra in vigore oggi la nuova normativa sui divorzi, che semplifica le pratiche e abbrevia le procedure. Si tratta di una svolta molto attesa dal mondo degli avvocati divorzisti, ma che potrebbe trovare difficoltà nella sua applicazione a causa della carenza di personale negli uffici giudiziari. Ne abbiamo parlato con l'avvocata Valentina Ruggero, esperta in diritto di famiglia. Questa riforma ne avevamo noi matrimonialisti e nella materia familiare molta necessità, perché si rendono più celeri le procedure di separazione e di divorzio. In che senso? Mentre prima con il ricorso introduttivo si depositavano solo in modo generico le proprie richieste e i documenti che si volevano far conoscere alla controparte, ad oggi ovviamente tutto completamente diverso. Tutto si deposita prima della prima udienza, in modo che il giudice alla prima udienza avrà la possibilità di esaminare l'intero processo. Questo può essere un aspetto molto positivo, perché così ovviamente non ci sarà poi una fase presidenziale e una fase istruttoria, ma semmai solo un'unica udienza in cui il giudice stabilirà quali saranno le prove e i testimoni da ascoltare, e poi ci sarà direttamente una decisione. Quindi anche un aspetto negativo. anche un aspetto negativo, perché avendo la difficoltà dei giudici di esaminare gli interi fascicoli di prove e quindi tutta quella che è la documentazione che la parte dovrà portare, perché poi con questa riforma si può chiedere anche in un unico ricorso la separazione e il divorzio per coloro che desiderano chiedere il divorzio anche successivamente. Ovviamente il giudice deve esaminare con molta attenzione tutto e può essere che i tempi ovviamente non possano essere rispettati, perché se ci sono molti magistrati a poter operare in una struttura di tribunale, insomma, ce la faranno sicuramente. Se invece sono pochi magistrati e anche il personale di cancelleria, ovviamente avranno delle grandi difficoltà. Entro la fine del 2024 tutta la regione dovrebbe essere coperta dalla fibra ottica. Se ne è parlato ieri a un convegno. A detta di molti, oggi non avere la connessione internet equivale ad avere una casa senza l'energia elettrica. Sono gravi le ricadute del digital divide, ovvero tra chi ha accesso a internet e chi non ce l'ha, con l'esclusione dai vantaggi della società digitale. Una fotografia della situazione in Italia e in regione, con alcune aree a macchia di leopardo ancora non collegate, è stata fatta a Trieste, nel Palazzo della Regione, all'incontro FVG Connect, infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della regione, promosso da Open Fiber, Vodafone e BAT. Open Fiber, che ha la più grande rete in fibra ottica in Italia, ha già investito 110 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia e ne investirà altri 100 entro il 2026. Nelle aree bianche, ovvero in tutte quelle aree in cui nessun operatore investe o investirà in connettività a banda larga e in cui è richiesto l'intervento economico dello Stato, Open Fiber, ha detto l'amministratore delegato Mario Rossetti, ha completato i lavori in 158 dei 181 comuni previsti dal piano della banda ultralarga e ha avviato i lavori in ulteriori 19 per un totale di 177. La rete con la fibra che entra direttamente nelle case verrà ultimata nel corso dell'anno, mentre le zone da coprire con tecnologia FWA, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio, quella per le case isolate per intenderci, sarà ultimata entro il 2024. Il piano Italia 1 giga, per lo più coincidente con le aree grigie ove sono presenti una o più reti in banda ultralarga, prevede poi il collegamento di oltre 70.000 civici in 183 comuni entro il giugno 2026. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito dello stesso appuntamento, la BAT, la British American Tobacco, ha fatto sapere che aprirà a marzo la seconda linea di produzione dello stabilimento di Trieste. Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Trieste, ha ricordato anche l'entità dell'investimento complessivo dell'azienda sul territorio, pari a 500 milioni di euro in 5 anni, e ha riferito che finora sono state assunte in tutto 65 persone a fronte di 7.000 curricula arrivati e ancora in fase di valutazione. La Cimolai S.p.A., azienda pordenonese specializzata nella progettazione e costruzione di grandi opere in acciaio, ha avviato un'avvertenza giudiziaria nei confronti del broker J.B. Drax Honor, che secondo l'azienda avrebbe effettuato la vendita di alcuni derivati sulle valute in modo errato. L'avvertenza fa riferimento a una serie di operazioni in derivati effettuate nel tempo dal precedente direttore finanziario di Cimolai, operazioni che hanno messo in crisi i conti dell'azienda, che è ora impegnata a evitare il fallimento. Come ricorda Bloomberg, in gioco ci sono circa 500 milioni di euro che sono ora al centro di una ristrutturazione giudiziaria. A sostegno della propria tesi nella causa, Cimolai avrebbe depositato numerosi documenti. Cresce in modo costante a Trieste il traffico delle navi da crociera, con i suoi impatti e le sue ricadute anche economiche. Ne discute oggi, sulla base dei primi dati raccolti, un nuovo gruppo di lavoro di Adesso Trieste, in un incontro che si inquadra anche in vista dello sciopero per il clima previsto il 3 marzo. Tra i partecipanti, esperti di turismo ed economia, insieme a membri di Adesso Trieste. L'appuntamento è alle 18 nella sede di Piazza Puecher 9. È in programma per oggi un'assemblea pubblica per dire no alla mega acciaieria nella zona industriale Aussacorno a San Giorgio di Nogaro. L'incontro, organizzato dal Comitato per la Difesa Ambientale della Bassa Friulana, punta a mettere in luce le ricadute negative ambientali e sociali del progetto. Inizio alle 20:30 a Villa Dora a San Giorgio di Nogaro. Educazione alla legalità, alla sicurezza stradale e alla capacità di evitare i rischi della rete. A Gorizia si è concluso un ciclo del progetto Incroci, un'iniziativa del Ministero dell'Interno per le scuole. Una foto hot inviata a un ragazzo conosciuto in chat. Tranquilla, non la condivido con nessuno, assicura l'altro, ma poi l'immagine finisce su internet. Arrivano dal web i rischi più insidiosi per gli adolescenti, li spiega la polizia postale nel progetto Incroci, organizzato dal Ministero dell'Interno per i ragazzi delle scuole superiori. All'ISIS Galilei Fermi Pacassi di Gorizia si è tenuto il terzo incontro dell'iniziativa. Al centro la visione e il commento di un filmato che mostrava i rischi in cui incorrono alcuni ragazzi nel tragitto casa-scuola. Nicolò Toresini, Polizia Postale di Gorizia. Il tema solito nostro è l'argomento del cyberbullismo, quindi affrontare l'utilizzo corretto della rete internet in classe ma anche fuori dalla classe, il coinvolgimento anche dei genitori, soprattutto per i ragazzi più piccoli, fare attenzione al materiale che si scambia in chat. Insieme alla Polizia Postale presenti anche i responsabili locali della stradale e ferroviaria, che hanno messo l'accento sulle disattenzioni di tutti i giorni che possono essere fatali ai ragazzi. Gli studenti hanno trovato utile l'iniziativa. Abbiamo parlato dell'uso del telefonino, che è uno strumento di socializzazione che anzi abbassa molto la socializzazione. Sicuramente quando attraverserò la strada starò molto più attento alle auto che passano. Interessati anche dirigenti e insegnanti, che trovano questi pericoli molto comuni nella vita dei propri studenti. Alessandro Puzzi, dirigente scolastico. Spesso i ragazzi non hanno coscienza e consapevolezza di quelli che sono i rischi che corrono nella vita comunitaria per tante ragioni, forse anche perché sono meno abituati rispetto magari a qualche tempo fa a vivere in comunità. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi a Trieste è possibile presentare la richiesta di un contributo di sostegno per le spese mediche, farmaceutiche e veterinarie che riguardano gli animali d'affezione. Tra gli interventi che vengono riconosciuti a titolo di rimborso dal comune figurano visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami di laboratorio e acquisto di farmaci, tutti per animali da compagnia regolarmente censiti. Tra i requisiti per presentare domanda, oltre alla cittadinanza europea o il permesso di soggiorno, occorre avere più di 65 anni, insieme a un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e serve essere proprietari di uno o più animali registrati e con microchip da prima del 2022. Partono oggi le nuove regole per il parcheggio dell'ospedale San Polo a Monfalcone. Gli stalli verranno redistribuiti destinandoli alla sosta libera, alla sosta con disco orario e sosta per i dipendenti. La novità principale per gli utenti riguarda l'istituzione della sosta con disco orario per la durata massima di 4 ore nei 195 stalli disposti nella zona antistante l'ingresso dell'ospedale, che sarà attiva da lunedì a venerdì dalle 7 alle 15. 84 posti resteranno per la sosta libera, 17 saranno destinati ai disabili. Non solo Maneskin, nel cartellone dell'estate triestina ci sarà anche Zucchero con ben due serate, il 4 e il 5 luglio. L'ufficialità delle due date del cantante arriverà con la delibera di giunta a stretto giro. Altro nome destinato ad attrarre una moltitudine di fan è quello di Biagio Antonacci, atteso il 15 luglio. Se i Maneskin suoneranno allo stadio Rocco il 16, Zucchero si esibirà in Piazza Unità davanti al mare e ha 5.500 posti a sedere. Identica location sarà quella per Biagio Antonacci. Il comune, per ammortizzare le spese del palco, sta pensando di organizzare un ulteriore evento di respiro internazionale l'8 o il 9 luglio. Gli spettacoli saranno finanziati con la tassa di soggiorno. È arrivato a conclusione il progetto Mestieri della Scena, che coniuga teatro e artigianato, insegnando l'arte della recitazione insieme a quella di tutti i lavori che riguardano un allestimento teatrale, dalla scenografia ai costumi fino agli impianti di illuminazione. Il risultato è lo spettacolo Sogno, teatri abbandonati al tempo del Covid, libera reinterpretazione del sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare con la regia di Francesco Accomando, responsabile artistico dei progetti educativi di Teatro Club. Inizio alle 19.30 al Teatro Odeon di Latisana. Per la pallanuoto, Trieste è rientrata dalla Final Eight di Coppa Italia con il rammarico per la sconfitta ai quarti con la AEN Brescia. Sarà impegnata oggi nella semifinale di andata di Eurocup contro la RN Savona. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle ore 20. Alle 7.43 incominciamo la rassegna stampa, incominciamo con il piccolo di Trieste. La prima pagina vede in apertura una grande fotonotizia che ci mostra un gruppo di migranti in cammino. Il titolo: più arrivi lungo la rotta balcanica, e si riferisce ai numeri forniti dal prefetto di Trieste e di cui vi abbiamo riferito nei giorni scorsi. Sotto, l'hotel Obelisco rinasce a 5 stelle con spa e parco. Si tratta di una struttura che si trova ad Opicina e che è inutilizzata da una quarantina d'anni. Accanto, per le elezioni, salute, ambiente e occupazione, le strategie dei quattro candidati. Parliamo ovviamente delle elezioni regionali. Per la cronaca, presunte molestie del mister agli allievi, il PM chiede 9 anni. PPN presenta ricorso contro lo sfratto da Porto Piccolo, riparte la sfida per nominare il caffè patrimonio dell'UNESCO, BAT arriverà a marzo la seconda linea di produzione, infine i 100 anni di Lelio, sarebbe Lelio Luttazzi, l'evento al Rossetti. In primo piano nell'edizione dell'Isontino l'annuncio che riguarda la centrale di Monfalcone, dal carbone all'idrogeno, svolta per la centrale A2A. Sotto, strade di Gorizia a misura di disabile, dalla Transalpina alla stazione, e i carabinieri del NOE e i tecnici dell'ARPA controllano l'Eternit dell'ex Ital Svenska. Per il Messaggero Veneto ci sono le elezioni in apertura nell'edizione di Udine. A mezzogiorno di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per i 24 comuni che andranno al voto. Gli aspiranti sindaci sono 56, di cui 47 uomini e solo 9 donne. All'interno del giornale la presentazione dei candidati. Sempre in prima pagina, fotonotizia dedicata al tour de force del centro impianti dell'ospedale di Udine e ai suoi 8 interventi effettuati in 30 ore. Per la cronaca si parla dell'incendio doloso avvenuto lunedì a Resia, dove è stato dato fuoco a un prato vicino al bosco, e dell'uomo di Udine ferito con un coltello dalla compagna. Anche nell'edizione di Pordenone la notizia d'apertura è per la politica, con le liste e i candidati. Al centro, grande fotonotizia per lo scrittore e insegnante pordenonese Enrico Galliano, che prende posizione contro il ministro dell'interno Piantedosi sui migranti morti a Crotone. Ho fatto lezioni su di loro, toglietemi pure la cattedra. E ancora la avvertenza di Cimolai e la causa sui derivati, mentre per la cronaca cittadina le ipotesi per il nuovo stadio del Pordenone, con 5.000 posti in vista della Serie B. Infine, la condanna a 2 anni al 75enne che, guidando senza occhiali, aveva travolto una persona sulla Pontebbana. Il Gazzettino del Friuli apre con le elezioni di aprile, 500 in corsa per il comune, stiamo parlando delle elezioni amministrative per il comune di Udine, 4 i candidati sindaco. Tra i temi caldi della campagna elettorale, la sicurezza, ma anche la raccolta dei rifiuti, i passaggi a livello e la sanità. Anche la fotonotizia riguarda le elezioni, si vota anche in altri 11 paesi del Friuli, ovviamente, Forgaria e Sauris, incubo quorum. Accanto, lite di coppia, colpi di coltello, lui in ospedale, e ancora l'inverno non ferma la rotta balcanica, medici assenti, scoperti i CERT della Bassa, 5 trapianti nell'arco di 30 ore. E per lo sport, contro l'Atalanta serviranno certezze, parliamo dell'Udinese, e per il basket, Old Wild West, 3 giornate di squalifica a Gentile. Anche l'edizione di Pordenone apre con le elezioni, 700 in corsa per i comuni sono quelli della provincia di Pordenone, sono 11. Sotto, giovane aggredito con uno spray urticante finisce in ospedale, accaduto a Sesto al Reghena, e sull'episodio indagano i carabinieri. Il titolo della fotonotizia: Borgo Meduna vede il futuro, verde e piazze per risorgere. Sotto, per lo sport, rabbia per il rigore squalificato Lovisa, parliamo del calcio del Pordenone, e accanto tutti i pronostici per Tamai Kyongs. Arriva a Gorizia Casanova Opera Pop, il colossal di teatro musicale creato da Red Canzian. Lo spettacolo, ambientato nella Venezia del Settecento, è interpretato da 21 performer tra cantanti attori e ballerini acrobati e prevede un allestimento immersivo con 30 cambi di scena. Appuntamento alle 20:45 al Teatro Verdi di Gorizia. Si chiama Le Pix Ensemble, il doppio quintetto di fiati e archi composto da 10 giovani strumentisti che si esibirà in concerto stasera al Palamostre di Udine, con un programma che va da Louise Farenc fino a Théodore Dubuis. Inizio alle 19:22. Si apre al Miel la rassegna Protagoniste, con un doppio appuntamento. Da oggi fino al 3 marzo saranno in scena a orari alterni i monologhi Greta ed io di e con Arianna Saine e Chic Pausa con Laura Bussani. Inizio alle 19 e alle 20:30. In occasione dei 110 anni dell'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi è in programma al Conservatorio Tartini di Trieste un concerto per pianoforte. A suonare sarà la pianista Irene Russo, che si esibirà con musiche di Schumann, Brahms, Wagner e Liszt. Inizio alle 20:30. È approdata all'ultima tappa del suo percorso la mostra Storie di pietre e di confini in tempo di pace, che da oggi sarà a Gorizia. Come illustra il titolo, il progetto indaga l'evoluzione costante e impetuosa dei confini di una terra complicata come il Friuli Venezia Giulia, dal limes romano al patriarcato di Aquileia, passando per Napoleone, le guerre mondiali e la guerra fredda. La mostra, realizzata grazie a una ricerca storica di Lorenzo Salimbeni, rimarrà aperta fino al 16 marzo e sarà visitabile durante gli orari di apertura del Palazzo Comunale di Gorizia. Prosegue il tour delle anteprime di Dedica, oggi a Zoppola, e in programma lo spettacolo Il pranzo della domenica, voci dalla cucina in un giorno di festa, opera ispirata ad un racconto di Meili de Kerangal con Angelo Floramo e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Inizio alle 20:45 all'Auditorium Comunale. L'anteprima Aspettando Monfalcone e Geografie comincia oggi con l'incontro Salvarsi con il Verde, la rivoluzione del metro quadro vegetale, con Andrea Matti. L'appuntamento è a Gorizia, nella sala conferenze dei musei provinciali, alle 18. La critica Marianna Acerboni presenta il volume Estetica dovunque di Gillo Dorfles alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, a seguire la proiezione di un video dedicato al grande intellettuale di origine triestina. L'appuntamento inizia alle 17:30. Sarà presentato oggi a Trieste il libro di Salvatore Grisaffi, Il brutto anatroccolo, volume che indaga i contorni della generazione nata negli anni 50 e 60 e soprannominata, in modo anche offensivo, boomer. Appuntamento al circolo aziendale di Allianz in via Bottego 1 alle ore 18. A Pieris è in programma la presentazione di La Biblioteca di Tutti di Romano Vecchiet, storico dirigente dei musei e delle biblioteche di Udine, in dialogo con Antonella Agnoli dalle 18. Per il primo appuntamento degli incontri della Cattedra di San Giusto, dal tema Testimoni di Dio, si parlerà della figura di Don Luigi Giussani con il professor Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e Don Emanuele Silanos, vicario generale della Fraternità di San Carlo Borromeo, alle 20:30 nella Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Vue o Fevelin di. Alle 11:20 andrà in onda A Volo Radente. I programmi regionali torneranno poi alle 13:29. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. In regia, per la parte tecnica, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito, un buon proseguimento d'ascolto e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.